divisa, facci parata, vertice criminale, al pugno il tuo destino, ti metterò pressione in questi occhi da bambino, il mio odio non ha nome, ma conosce il tuo cammino, una bomba al vostro cuore, uno scherzo del destino. Come la benzina, lascia un fiammifero e brucia più di prima. Mangani dei granchi non fermano la rabbia, perché se porto vento ed è volato via. La polvere e sudore, tra di dare ancora. La polvere e sudore, tra di dare ancora. Nessuno sconto per la nostra vita, non ha prezzo la nostra libertà. Vertice criminale, ogni pugno il tuo destino. Ti riflette l'oppressione, in questi occhi da bambino. Il mio odio non ha nome, ma conosce il suo cammino. Una bomba al vostro cuore, uno scherzo del destino. Da questo il mondo non si ferma, verso una lacrima non ha mai nella bandiera. Si disideati che senza nome affollano gli armati della stanza del potere. Tu madre di Genova che piangi nel silenzio, cadere ne altri ridono senza pietà. Genova se piangi nel silenzio, quando i regnanti ti dono senza pietà. Vertice criminale.